Radio 24 Reportage. Donne che lottano con gli emiri, di Michela Sechi, in collaborazione con Radio Svizzera Italiana. Questa è la voce di Manala Al-Sharif, una giovane saudita che si fa filmare mentre guida con disinvoltura la sua auto. È il maggio 2011. Per aver caricato su YouTube questo video, Manal finisce in carcere per 9 giorni. Un editto religioso, infatti, vieta alle donne saudite di guidare. Manal viene liberata solo dopo le proteste della comunità internazionale. Di lei hanno parlato tutte le TV del mondo. Oltre un anno dopo la sua protesta, Manal ci racconta che è stata costretta a lasciare l'Arabia Saudita e fa il punto sulla situazione delle donne nel suo paese. Adesso vive a Dubai, ma non si è pentita di quello che ha fatto. La mia è una storia molto più semplice e spontanea di quello che possiate pensare. Ho la patente, ottenuta negli Stati Uniti, e ho una macchina. Ma non la posso guidare, solo perché sono una donna. Quando una mia collega mi ha detto che in realtà in Arabia Saudita non c'è nessuna legge scritta che impedisca alle donne di guidare, ho avuto l'idea. Creare una pagina Facebook e stabilire un giorno in cui le donne avrebbero guidato. Gli uomini ci dicono che le strade sono pericolose, che una donna da sola in auto potrebbe essere aggredita o stuprata. Così mi sono fatta filmare al volante e ho postato il video su YouTube per dimostrare che non è vero, che ho guidato e non mi è successo niente. Il video quel giorno è diventato il più cliccato in rete, non solo in Arabia Saudita, ma in tutto il mondo. Il giorno dopo ero in prigione. Per le donne saudite è stata come una sveglia che suonava. Alcune hanno scritto: come abbiamo fatto a sopportare la nostra condizione fino a questo momento? Non importa che tu sia laureata, una professoressa, una scienziata. Sei come una ragazzina che ha bisogno del permesso di un uomo per fare qualsiasi cosa nella sua vita. Per studiare, per lavorare, per avere il passaporto, per viaggiare all'estero, per tutto. Hai cominciato a essere cosciente da subito di questa situazione? No, quando eravamo bambine siamo state educate ad ascoltare, a obbedire agli uomini, a chiedere il permesso. Siamo state cresciute come esseri inferiori, come peccatrici e causa di tutti i mali. Ad esempio in Arabia Saudita è visto molto male se tu ti scopri il viso, se rivolgi la parola a un uomo, se lavori in un ambiente misto. Ma le donne hanno cominciato a violare queste regole una dopo l'altra, perché l'Arabia Saudita si sta aprendo al mondo. Ci sono 130.000 studenti sauditi che fanno l'università all'estero. Circa la metà sono studentesse. Queste giovani donne, quando ritornano, non accettano più le condizioni che vengono loro imposte. Quando devi lottare così tanto per le cose più semplici della vita, come uscire per fare la spesa, per portare tuo figlio a scuola, per andare dal medico, cominci a chiederti: perché non posso guidare? Perché devo chiedere il permesso a mio padre per lavorare o per andare all'estero? Le altre donne del Golfo, in Kuwait, negli Emirati, in Qatar, possono fare tutte queste cose. Questo solleva delle domande, ti fa prendere coscienza. Stai parlando delle giovani saudite o anche la generazione delle vostre madri vi incoraggia? Se leggi il mio profilo su Twitter, dice: dato che mia madre non è riuscita a cambiare il mio presente, ho deciso di cambiare il futuro delle mie figlie. Siamo state cresciute da madri molto conservatrici e da padri progressisti. Il risultato è stato figlie femmine progressiste e figli maschi conservatori come le loro madri, e cercano spose che siano come le loro madri. Questo crea enormi problemi. In Arabia Saudita il 60% dei matrimoni finisce in divorzio. Gli uomini non capiscono che le donne vogliono lavorare, vogliono dire la loro e non vogliono più chiedere il permesso. La cosa strana è che i peggiori nemici di noi giovani donne non sono gli imam o il governo o gli uomini, ma le donne stesse. È incredibile. Quante donne mi hanno detto: non ci rappresenti, parla per te. Siamo felici così come siamo, non vogliamo cambiare. Quando mi sono messa al volante, 1000 donne saudite hanno firmato una petizione e l'hanno inviata al re Abdallah per dire: noi non vogliamo guidare. È stato buffo. È forse la prima volta nella storia che qualcuno si alza in piedi e grida: non voglio i miei diritti, non datemeli. Magari non piaccio neppure agli uomini, ma non sono mai così aggressivi come le donne. Perché? Prima di tutto perché le donne pensano che io abbia degli scopi nascosti, che qualcuno mi abbia fatto il lavaggio del cervello, che sono manovrata, che sono una cospiratrice. Oppure sono gelose o invidiose. Oppure pensano, chi si crede di essere Manal per pretendere di rappresentarci? Ma io rispondo a queste donne. È vero, io non vi rappresento, rappresento solo la mia battaglia personale. Ma allora chi vi rappresenta? Voi non eleggete nessuno. Anche quelle donne che accedono al consiglio della Shura sono scelte dal re e quindi non vi rappresentano. Non rappresento nessuno perché noi non abbiamo rappresentanti, non votiamo. Dunque neppure voi mi rappresentate. Manal al-Sharif, che ora ha 33 anni, non è sempre stata una ribelle. La cosa interessante della sua storia è che si descrive come un'estremista religiosa che a un certo punto della sua vita ha aperto gli occhi. Io ero molto religiosa da ragazzina. Mi coprivo dalla testa ai piedi, non ascoltavo musica. A scuola c'erano sempre lezioni sull'Islam e su cosa era permesso o vietato. Io ero una bambina che voleva seguire le regole ed essere una brava musulmana. Il vero punto di svolta nella mia vita è stato l'11 settembre 2001. All'epoca ero molto estremista e sostenevo la necessità della guerra santa in Afghanistan e in altri paesi. Ma con l'attentato alle Torri Gemelle mi sono detta, come? Critichiamo così tanto gli israeliani per quello che fanno i palestinesi e anche noi uccidiamo persone innocenti? Ho visto per la prima volta la faccia crudele della jihad. È stato come un campanello che suonava per me, perché smettessi di seguire quella gente. La storia di Manal al-Sharif non è un'eccezione. Ci sono altre donne che hanno sfidato i re e gli emiri del Golfo. Una è Mariam al-Khawaja. Modi decisi, voce ferma e una personalità dirompente. A soli 25 anni, Mariam dirige il Centro per i diritti umani del Bahrain, sostituendo suo padre, un noto attivista, che è in carcere condannato all'ergastolo. Anche lei, come Manal, ha dovuto andarsene dal suo paese e rifugiarsi all'estero. Qualche mese fa ha scoperto che in Bahrain c'era un ordine di arresto nei suoi confronti. Se vuoi conoscere la situazione dei diritti umani in un paese, devi chiedere dove sono gli attivisti. In Bahrain, attualmente, i principali attivisti per i diritti umani sono in prigione. La situazione parla da sola. Se sei un dissidente, verrai arrestato, torturato, licenziato dal lavoro, aggredito, umiliato. Ecco come le autorità si occupano degli attivisti. Io sono cresciuta in Danimarca, dunque sono anche una cittadina europea. La mia famiglia è tornata in Bahrain quando avevo 14 anni. Non avevo idea di che cosa significasse vivere in un paese non libero, prima del mio ritorno in Bahrain. Non ho mai sopportato il modo in cui viene trattata la gente, come se noi non fossimo cittadini. Siamo sudditi della famiglia reale, siamo cosa loro, un affare di famiglia. Loro possiedono tutto e chi vive nel paese lavora per loro. Ma quando la gente è scesa nelle strade e ha vinto la paura, è stato fantastico. È stata come una ventata di aria fresca. La rivolta in Bahrain è portata avanti dalla maggioranza sciita oppure tutta la popolazione partecipa? I regimi del Golfo stanno cercando di farla apparire come una rivolta settaria, quando non lo è. Tutta la società ha preso parte alla rivoluzione. La maggioranza delle persone in piazza era fatta da sciiti, perché la maggioranza dei cittadini del Bahrain è sciita. Le autorità continuano a giocare sull'idea di un conflitto tra sunniti e sciiti, perché come altri regimi oppressivi cercano di dividerci per controllarci meglio. In Egitto cercano di far passare l'idea che ci sia un conflitto tra musulmani e copti. In Siria cercano di far passare l'idea di un conflitto tra sunniti e alawiti, ma non è così. Sono regimi oppressivi che combattono contro la loro stessa gente. Ci sono proteste ogni singolo giorno. Le stesse violazioni dei diritti umani accadute nel 2011 accadono anche adesso. È perché la gente ha speranza. Anche se il popolo del Bahrain viene ignorato da tutti, è convinto che ce la farà. Ci potranno volere 5 anni o 50, ma se continuano a protestare e a scendere in piazza, non c'è nessun governo che può resistere all'infinito. Dunque, alla fine, otterranno quello che vogliono. La rivolta in Bahrain è stata repressa dalle truppe inviate da Riyadh per dare manforte all'emiro. Negli stati del Golfo nulla succede senza il benestare dell'Arabia Saudita. Ancora Mariam Al-Khawaja. L'Arabia Saudita non controlla solo gli stati del Golfo, ma ha influenza su molti paesi in Medio Oriente e Nord Africa. E di solito è un'influenza negativa. L'Arabia Saudita sta guidando attivamente la controrivoluzione nel mondo arabo, esporta l'estremismo religioso, appoggia molti partiti islamisti. L'Arabia Saudita ha molta paura della rivolta in Bahrain, perché teme che possa arrivare un giorno in casa propria. Il Bahrain è il suo cortile di casa, per questo Riyadh ha mandato le truppe. Ma non ce la faranno per sempre. Quando mio padre è stato messo in prigione, noi familiari eravamo molto depressi. Ma lui ci ha detto, la prima vittoria non arriva quando si ottengono riforme o un cambiamento di regime, ma quando la gente scende in strada, è questo che va festeggiato. Sarà un lungo percorso, ma il fatto che la gente abbia deciso cosa vuole già significa speranza. Manala al-Sharif è convinta che un giorno anche l'Arabia Saudita, il gigante addormentato, avrà la sua primavera araba. Le autorità saudite odiano la parola primavera araba perché non vogliono avere una rivoluzione nel paese. Ma sta arrivando perché il re Abdallah e i suoi successori sono gente vecchia, hanno più di 80 anni, sono più vecchi dell'Arabia Saudita stessa. Siamo una maggioranza di giovani che vogliono essere liberi. L'80% di noi ha meno di 40 anni. Vogliamo poter decidere il nostro futuro. Vogliamo che il governo non metta il naso nella nostra vita privata. Per il momento siamo come spettatori che attendono di sapere cosa succederà sul palco. Ma se non ci saranno vere riforme e cambiamenti reali, la primavera araba arriverà anche qui, di sicuro. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.